su CRM Happy Radio. Buongiorno e bentrovati, eccomi qua di nuovo insieme a voi ai microfoni di CRM Happy Radio. Questa è la voce di Mary Catalano, quella che vi parlerà sino a mezzogiorno per questo martedì del 25 di ottobre. Bellissimo, che dire, stupendo, straordinario, splendente martedì del 25 di ottobre, una giornata strepitosa, piena di sole e quindi piena di energia per tutti noi che ci siamo svegliati da un po'. C'è chi si è svegliato molto molto molto prima di noi, vero? C'è chi forse ancora si deve alzare dal letto, beato te, o forse non lo so, bisogna prendere un po' il lato positivo ma vedere anche la negatività del dormire troppo. Non dormiamo troppo perché altrimenti poi la giornata finisce così, a letto, e non è che sia poi così tanto bello, a meno che non siete abituati tutti i giorni a fare una vita molto frenetica. Allora un giorno magari ci può anche stare che uno se ne sta nel letto, però con questa bella giornata no, non ve lo consiglio assolutamente, anzi su, fuori dalle coperte. Se ancora, se già ci siete arrivati insomma a coprirvi con le coperte, perché ancora comunque non c'è tutto questo freddo per fortuna. Ok, siete pronti? Io sì, c'ho un sacco di bella musica da farvi ascoltare anche questa mattina. Naturalmente mi serve anche il vostro contributo, il vostro aiuto, se chiamate, se prenotate le vostre canzoni preferite, se volete raccontarci qualche storiella strana che vi è successa in questo weekend, questo fine settimana. Oggi siamo già a martedì, comunque già sono successe un sacco di cose in questo fine settimana, cose belle ma cose anche più brutte, cose un po' tristi, anzi molto tristi. Insomma, non stiamo qua a parlarne perché sennò finisce che ci rattristiamo troppo anche oggi e non è il caso, bisogna cercare di andare comunque avanti. C'è una giornata lavorativa piena di cose da fare, giusto? E allora noi non possiamo far altro che allietare soprattutto la vostra giornata grazie anche alla musica che naturalmente ascolterete con me sino a mezzogiorno, come dicevo prima. Dunque Deja Vu, dunque Mary Catalano, dunque voi, se chiamate al 335-56-37251 per gli sms, mandateci le vostre segnalazioni e poi non dimenticate che c'è anche a vostra disposizione il numero fisso di CRM, che è lo 0921 92 32 92. Facebook a disposizione vostra, il sito di CRM anche, ovvero www.crmpiradio.it, ci seguite in streaming anche da lì. Detto tutto, mi pare che sia il caso adesso di andare avanti, di continuare questo appena cominciato appuntamento, e lo facciamo alla grande con Daido e questa splendida canzone che si chiama White Flag. Ancora ben trovati, buongiorno a tutti voi dovunque voi siate. I know you think that I shouldn't still love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with it. surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will. Era Daido su CRM White Flag. Siete all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano, con voi sino a mezzogiorno. Fra poco CRM Happy Radio. What goes around comes back around. Hey, my baby. What goes around comes back around. Hey, my baby. I say what goes around comes back around. Hey, hey, my baby. What goes around comes back around. There was a time. Beyoncé che canta la migliore cosa che io abbia mai avuto, ovvero Best Thing I Never Had. Beyoncé qui a CRM all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano. E per quanto riguarda Beyoncé, c'è da dire che è già arrivata al quinto mese di gravidanza e pensate che ha già organizzato tutto quanto per l'arrivo del suo primo figlio, che ancora prima di nascere ha già conquistato il primato di unico neonato al mondo ad avere una cameretta grande quanto un appartamento. Ho pensato un po', circa 240 metri quadri, neanche la casa mia è così grande. Comunque, e lei ha pensato bene di organizzare il tutto. Mamma Beyoncé e papà Jay-Z hanno riservato al piccolo questa nursery che è veramente grandissima nel loro lussuoso appartamento di Tribeca, New York. Sembra però che gli amici della coppia non abbiano accolto molto bene la scelta dei futuri genitori, tanto che qualcuno si è chiesto se non sia pericoloso lasciare un bambino tanto piccolo in una stanza così grande. Ma in barba alle critiche, Beyoncé continua la sua strada, per la sua strada e per il suo bebè è pronta a fare le cose in grande. A questo punto però sorge il dubbio che in realtà la cameretta non sia stata costruita per il piccolo, ma piuttosto per ospitare lo stuolo di Tate, che dopo la nascita invaderà la casa della cantante. Sicuramente non avrà problemi ad accudire il proprio figlioletto, grazie anche al contributo e l'aiuto di altre persone, di altre donne, di altre Tate appunto. Quel che è certo è che la star del pop si è trovata un passatempo per i prossimi mesi, arredare l'immensa nursery, perché poi per quanto riguarda la

e Rosy, speriamo che siate all'ascolto, così vi arriva il mio saluto caloroso sempre come al solito. E vi ho sentite, sapete, vi ho sentite ieri, non preoccupatevi che vi tengo d'orecchio a tutte e due e non vedo l'ora che qualche volta insomma mi facciate qualche sorpresina spuntando qua a prima mattina all'interno di Déjà Vu come ai vecchi tempi. Un altro saluto grande va a Patrizia, la nostra fedelissima nonché amica di CRM Radio e mia amica, e poi tutti quelli che sono in questo momento all'ascolto e che si stanno dando un gran da fare per tutte le faccende insomma che hanno da fare, soprattutto le casalinghe che saranno al lavoro già da un bel pezzo e in questo momento fra le tante cose hanno anche il pensiero di cosa cucinare a pranzo. Diamoci un po' di aiuto, mandate sms a 335 56 37 251, dateci qualche ricetta particolare, innovativa, ma soprattutto una ricetta sbrigativa, soprattutto perché dobbiamo essere veloci. Intanto arriva Eros Ramazzotti con Più bella cosa. Ancora buongiorno. Come è cominciata io non saprei, la storia è infinita con te, che sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, è un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Che ancora sei, che porto qui dentro di me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Lavoro di voce, lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei. Happy Radio. My friends say think good about things, My friends say think of the fights, and then it should be easier to walk away. No more sleepless nights, and even though I don't need you, you're clearly the best thing to happen to me. We should be happy ever after, happiness and laughter, what a natural disaster. Need to tell myself I don't care, need to tell myself you're not there. Need some air, need some space, need some air, need some space, need some air. The way I'm feeling, I just don't care. Disaster, gli example qui a CRM, sempre all'interno di Déjà Vu, insieme a Mary Catalano che vi sta parlando e vi parla di una cosa di cui si parla, scusate il gioco di parole, si parla sempre più spesso in questo ultimo periodo, e si parla proprio di parole, le nuove parole da inserire nei dizionari e nella lingua italiana, postare, twittare e che babbaro, sono praticamente alcuni esempi, soltanto alcuni degli esempi più recenti. In realtà c'è un altro fenomeno molto interessante, molte parole della lingua cadono lentamente in disuso, in omaggio al fatto che la lingua è una produzione quotidiana di chi la parla. Questa però non è una buona ragione per abbandonare tante parole al loro destino, almeno questo è quello che hanno pensato i promotori di un'iniziativa davvero interessante, ovvero Adotta una parola. La società Dante Alighieri, il Corriere della Sera, poi Io Donna e altri quattro grandi editori di dizionari hanno lanciato questa iniziativa, appunto come dicevamo prima, Adotta una parola, per salvare le parole della lingua italiana in via d'estinzione. Davvero un'idea particolare, importante, interessante. Comunque, in termini pratici, cosa bisogna fare per adottare una parola? Bisogna andare sul sito promotore dell'iniziativa ed impegnarsi ufficialmente a sostenere la parola prescelta per un anno, segnalarne gli abusi, incoraggiarne il corretto utilizzo e promuoverne l'uso. Al termine dell'anno, se si sarà svolto con giudizio il proprio lavoro di genitore, fra virgolette, si riceverà un attestato ufficiale di adozione. Insomma, se non avete qualche volta niente da fare, non sapete come passare il vostro tempo, potreste adottare una parola, insomma, e fare un po' quello che abbiamo appena detto e consigliato di fare per salvare, adottare e salvare le parole in via d'estinzione. Adottare una parola è una cosa importante, tanto quanto conoscere il significato delle parole nuove della nostra lingua. Si può partecipare anche sul sito di Io Donna o del Corriere della Sera, che hanno già adottato 20 parole. Le parole adottate sono a pastellare, calligrafico, contrito, delibare, insomma ce ne sono un sacco, pure strane, che non si usano praticamente mai, però se siete affezionati a qualche parola potete salvarla in questo modo. Gli utenti del forum dovranno scrivere delle frasi utilizzando una di queste parole per ottenere la pubblicazione ed altri premi. Quindi datevi da fare. E andiamo avanti, perché noi ci diamo anche da fare, sì, per farvi sentire la musica che anche voi ci segnalate. E andiamo a sentire questa volta Biagio Antonacci, grazie alla segnalazione di Fabio, che ci chiede il singolo Chiedimi Scusa. Nato sotto un segno molto complicato, libero e diverso intanto, per questo contraddetto, amato, amante un po' in difetto. Un anno senza te si sente, bella la città negli occhi che hai distrutto. Pagare tutto senza conto, pagare tutto e basta. Milano è come un nervo teso. Un anno senza te si sente. Chiedimi scusa, ho solo sbagliato, ho solo non detto. Chiedimi, chiedimi, chiedimi scusa per quello che hai scritto, per come hai creduto. Chiedimi, chiedimi. Quotidianamente soffrivo in alternanza, sali e scendi come in borsa, chiudendo il negativo. Un anno senza te mi spacca. E chiedimi scusa per quello che hai rotto, per quanto è costato. E chiedimi, chiedimi, e chiedimi scusa. Fottuta sentenza, fottuta ignoranza. E chiedimi, chiedimi, yeah. Solo come valle al sole, non si sta male. Bevo quasi sempre poco, un gioco e mi gioco. E chi mi tocca sente ancora un uomo a metà. Quindi adesso dolcemente, ma quindi adesso veramente, chiedimi scusa. Tanto non basta, e tanto non torno, no. E chiedimi, chiedimi, e chiedimi scusa. Un saluto va a Fabio, che ci ha segnalato Chiedimi Scusa, il singolo che ancora sentiamo in sottofondo da Biagio Antonacci. Ancora ben trovati, siete su CRM Happy Radio. Un buongiorno a tutti quelli che si sono messi in sintonia con noi soltanto da qualche minuto. Siete insieme a Mary Catalano, con voi sino a mezzogiorno. E a proposito di Biagio Antonacci, vi voglio ricordare che esce l'album Colosseo, il primo album dal vivo di Biagio Antonacci, composto da CD, DVD, tratto da Biagio Antonacci Colosseo, concerto per l'UNESCO. Per l'evento del 3 luglio Biagio ha elaborato un concerto semiacustico ad hoc nel rispetto del sito Patrimonio dell'Umanità, suonando e cantando accompagnato da violini, chitarre, percussioni, insomma davvero un grandissimo concerto. E Antonacci ha inserito in scaletta tanti successi, da Iris a L'Inaspettata, a Sognami, Se fosse per sempre, Pazzo di lei, insomma le canzoni più belle del suo repertorio. E l'album Colosseo consentirà a tutti di poter vivere l'evento che ha visto come protagonista lo stesso cantautore, attualmente impegnato in studio, naturalmente in studio di registrazione, per la realizzazione del suo nuovo album di inediti, la cui pubblicazione è prevista per la primavera del 2012. In un concerto d'eccezione tenutosi in una cornice unica al mondo e che per la dovuta cautela che doveva essere garantita al celebre anfiteatro Flavio era stato riservato ad un pubblico di soli 600 spettatori, pensate. Come l'evento concerto dello scorso 3 luglio, l'album sostiene l'istituzione di borse di studio per giovani archeologhe ed archeologi provenienti da paesi in stato di guerra. Biagio Antonacci tornerà ad esibirsi live il prossimo anno, a maggio, in un tour che farà tappa nei palasport delle più importanti città italiane, a partire dal 5 a Bari, il 7 ad Acireale proprio qui in Sicilia e poi così via discorrendo. Insomma, impegnatissimo anche lui. Arriva un'altra grande super mamma e super impegnatissima, questa volta donna. Lei si chiama Gianna Nannini e la sentiamo con Ti voglio tanto bene. Buon ascolto. Io vivrò con te, ogni giorno comincia dove i baci finiscono. Ora che è inevitabile un dolore fantastico nei minuti che restano per sempre. Ti voglio tanto bene e ci sarò per te se sentirai nel cuore un amore che non c'è. Ti voglio tanto bene e ti raggiungerò con tutta la mia voce, ascoltami, io canterò per te. Mi sentirai nell'aria, entrare nei tuoi occhi, sola nell'anima. E nel sole rinascere. Io lo so che siamo fragili e con gli occhi degli angeli ci guardiamo resistere. Io vedo un mondo migliore, si girano le nuvole a picura di splendere. Ti voglio tanto. E niente finirà se non avrai paura di continuare a vivere. Io canterò per te, mi sentirai nell'aria, entrare nei tuoi occhi, sola nell'anima. Io voglio tanto bene, miei cari radioascoltatori, soprattutto quando interagite con me, soprattutto quando mandate messaggi, quando scrivete su Facebook, quando guardate, vedete, sentite, soprattutto in streaming CRM Epiradio e il suo mondo, il www.crmepiradio.it, appunto il sito dove potete incontrare il mondo della musica attraverso i nostri appuntamenti, dunque attraverso le nostre voci, attraverso la musica che naturalmente continua. 3355637251, numerino magico dunque per tutti. Continuate così, continuate a segnalarci le belle canzoni. Arriva Madonna, salutiamo Adriana che ci segnala Give It To Me. Yeah. What are you waiting? this. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. What? Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. What? Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. What? Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left. Madonna, che con i suoi successi musicali fa ballare ancora tutt'oggi, sempre splendida, sempre super, però non tanto nel mondo del cinema, sì, perché il suo film è stato fischiato a Londra, pensate. Se al Festival di Venezia era stato accolto da un breve applauso al termine della proiezione, l'accoglienza da parte del film di Madonna per il suo ultimo, appunto, che si chiama WWE, non è stata generosa da parte della stampa. Diversi fischi in sala proprio direttamente a Madonna e insomma alla pellicola, alla coppia raccontata in questo film di Edoardo Bill e Wallace, perché non fecero mistero di simpatizzare con i nazisti, insomma c'è stata un po' di maretta in questo senso. E lei però dice in questa cosa che è stata un po' fraintesa: la pellicola a discolpa dell'artista non ha velleità storiche, ha temi della commedia romantica che mette in collegamento due donne a decenni di distanza, le prese con i problemi d'amore, insomma non è stata accolta proprio alla grande questa pellicola del nuovo film di Madonna. Non si capisce bene perché il pubblico abbia fischiato una commedia romantica, pensa Madonna. Madonna che fra l'altro in questo periodo è in gran forma sul red carpet e insiste: sono stata fraintesa, non importa ciò che pensano i critici e il pubblico che conta, speriamo che insomma in questo senso avrò dei riscontri. Lo vedremo più in là quando il film appunto sarà visto un po' dappertutto in tutto il mondo. Intanto adesso c'è la pubblicità, noi ci sentiamo subito dopo, continueremo con la musica, quella nuova di su CRM Happy Radio. A te che perdi la strada di casa, ma vai dove ti portano i piedi e lo sai che sei libero nelle tue scarpe fradicie. A chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé, a chi supplica e poi se ne dimentica, a chi non ha un segreto da sussurrare una bugia da sciogliere, a chi non chiede perdono ma lo avrà. Benvenuto a un pianto che commuove, ad un cielo che promette neve. Benvenuto a chi sorride, a chi lancia sfide, a chi scambia i suoi consigli coi tuoi. Arriva in tempo per Natale. Benvenuto ad

Déjà Vu su CRM Happy Radio. CRM o Rihanna, fate un po' voi, insomma, lei con il nuovo singolo che si chiama We Found Love ha fatto parlare moltissimo di lei, è risultata scandalosa tra sesso e droga. Ci sono delle immagini shock nel nuovo video della cantante di We Found Love che abbiamo appena sentito, ha fatto discutere davvero tantissimo questo video e anticipa praticamente il nuovo album che si chiama Talk, That's Talk, in uscita il 21 novembre. Una coppia di giovani ragazzi passa intere giornate ad impasticcarsi, bere e fare tanto sesso, fino a quando Rihanna decide di darsi un taglio. Protagonista maschile è l'ex pugile e modello Dudley, e poi non, il cognome è difficilissimo, non lo pronuncio proprio, chi è presente alle riprese ha affermato, chi era presente ha affermato che c'era chimica sessuale tra di loro. Insomma, Rihanna ha rivelato anche di avere scelto personalmente il protagonista del suo video girato a Belfast lo scorso mese. Ogni momento è buono per effusioni e per fare, insomma, cose proibite e cose assolutamente inaccettabili, e tutto questo si evince dal nuovo video praticamente, per questo fa discutere tanto, per cui insomma è un po' diseducativo a detta di tutti. Però la canzone è molto orecchiabile, molto ritmata, e sicuramente per gli amanti di Rihanna non sarà che un altro grande successone che ascolteremo per le prossime settimane, per i prossimi mesi. Intanto noi facciamo una brevissima pausa qui a CRM Happy Radio e poi ritorniamo, sempre Déjà Vu, sempre Mary Catalana, sempre i vostri singoli richiesti al 335 56 372. CRM Happy Radio. Thank you. grande successo quello che abbiamo appena ascoltato da Bryan Adams, che si chiama Even, semplicemente, e ringraziamo Adele che ce l'ha segnalato al 335 56 37 251. Buongiorno anche a te Adele, ancora splendido il sole, brilla su nel cielo per questo martedì del 25 di ottobre. L'appuntamento insieme a me continua con la musica più bella di oggi ma anche del passato, come potete sentire ancora in sottofondo, e però ritorniamo nel presente, il presente proprio presente con il nuovo singolo di Coldplay che sentiamo subito con Paradise. Vi ricordo sempre il www.crmpiradio.it, il nostro sito dove ci potete seguire in streaming dovunque voi siate. Non dimenticate che c'è la pagina Facebook a vostra disposizione e c'è anche il nostro numero fisso, lo 0921 92 32 92, e poi naturalmente il numero che insomma con il quale vi bombardiamo ogni volta richiedendo di fare le vostre segnalazioni al 335 56 37 251, il numero per gli sms. Dunque Coldplay con Paradise, continuate a ascoltare la musica di CRM Happy Radio che non si ferma mai. Vi ricordo questo appuntamento fra l'altro in replica questa notte a partire dalle 2, senza interruzione, 2 ore di musica con appunto Deja Vu. Arrivano i Coldplay per voi, per le vostre orecchie, per la vostra splendida giornata. Mi auguro che sia veramente, non dico perfetta, ma insomma quasi. Me lo auguro, dai, insieme alla musica che continua. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Deja Vu su CR. But I said no, no, no, no, no, no. one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Ooh. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Yeah. Ooh. And it said no, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. Said no. I costumi. Halloween ormai è alle porte e negli Stati Uniti, patria della festa più spettrale dell'anno, è quasi tutto pronto. Nei negozi di costumi gli ultimi ritardatari vanno a caccia del costume perfetto per mascherarsi, da Supergirl a Biancaneve, da Wonder Woman alla poliziotta sexy. Stare qui, ti giuro, sai, sarei rimasto, sì. Sono convinto che se fosse stato per me, adesso forse sarei laureato. E magari se lei fosse stata con me, adesso sarei sposato. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è, chissà cos'è. Finché eravamo giovani era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Forse eravamo stupidi, però adesso siamo cosa, che cosa che, che cosa se. Quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dove. Cos'è stato? Cos'è stato cambiare così? Mi sono svegliato ed era tutto qui. Vuoi sapere che sei soddisfatto di me? In fondo non sono mai stato soddisfatto di che? Ma va bene anche se, se alla fine il passato è passato. Cosa diventò quella voglia che non c'è più? Cosa diventò, cosa diventò, che cos'è che ora non c'è più? Cosa diventò, cosa diventò quella voglia che avevi in più? E cosa diventò, cosa diventò, e come mai non ricordi più? Da da da da da da da da. successo quello che abbiamo appena sentito dalla voce di Vasco Rossi, Liberi Liberi, richiesto al 3355637251. Sì, sempre Deja Vu, sempre Mary Catalano insieme a voi, e parliamo di una cosa interessantissima che vi può interessare, anzi vi interessa sicuramente. Lunedì 31 ottobre dalle 17 alle 18:30 CRMP Radio sarà in diretta con il programma On the Road condotto da Roby D'Antoni dal supermercato PAM di Cefalù, in occasione dell'estrazione del biglietto vincente del concorso organizzato per i clienti del supermercato PAM Ferdico di via Cerincione a Cefalù. Dunque, per ogni spesa di valore uguale o superiore a 35 euro, il cliente avrà diritto a concorrere all'estrazione di un voucher per una crociera di una settimana per due persone sul Mediterraneo, con partenza entro il 13 novembre 2011. Niente male, devo dire. E quindi partecipiamo tutti quanti. Per partecipare cosa dovremo fare? Dovremo dobbiamo, di nostro impegno, di nostro pugno, scrivere i dati personali, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico, e firmare lo scontrino originale che sarà imbucato nell'apposita urna di fronte le casse. Insomma, l'estrazione avverrà in diretta FM radio e in audio e video sul nostro sito web, che è CRM. Di errori ne ho fatti, ne porto i lividi, ma non ci penso più. Ho preso ed ho perso, ma guardo avanti, sai dove cammini tu. Dimmi, ti diranno che sono una pazza, è il prezzo di essere stata sincera. Se la mia dignità è ancora giovane, dimmi, ti diranno che non sono ambiziosa, è il prezzo di amare. Alla fine dell'appuntamento insieme a Mary Catalano su CRM Happy Radio, e quindi con Deja Vu, 20 minuti in musica naturalmente, ma anche informazione e appuntamenti con noi. Come dicevamo prima, lunedì 31 ottobre noi di CRM vi aspettiamo dalle 17 alle 18:30 con la diretta e il programma On the Road condotto da Roby D'Antoni al supermercato PAM di Cefalù, in occasione dell'estrazione del biglietto vincente, insomma, di cui parlavamo prima. E dopo, dalle 19 in poi, saremo al Mangia Italiano e Vivi Meglio, ovvero manifestazione che si svolgerà a Cefalù dal 28 ottobre 2011 all'1 novembre 2011, naturalmente, e ci sarà sempre la nostra presenza, sempre CRM Happy Radio in diretta da Piazza Duomo dalle 19 alle 22 ogni sera per questa manifestazione e inaugurazione della mostra fotografica Immagini dalla Terra a cura degli studenti del liceo artistico Diego Bianca Amato di Cefalù, Corte delle Stelle, Corso Ruggero, e mostra a filatelica ottagono di Santa Caterina a Piazza Duomo. Alle ore 12 a tempo di marcia con Last Band, banda musicale dell'artistico Diego Bianca Amato di Cefalù, mentre alle 12:30 la sana merenda, degustazione mirata a favore degli alunni delle scuole elementari e medie alla Corte delle Stelle in Corso Ruggero. E alle 19, dalle 19 sino alle 23,

delle più belle canzoni dell'ultimo periodo è quella che abbiamo appena ascoltato in sottofondo, come è bellissimo anche quello di oggi, stupendo, assolato, la musica bellissima per voi, richiesta al 3355637251 da Graziano, che salutiamo e dunque accontentiamo con U2. Abbiamo già parlato anche troppo, vero Graziano? Ok, buon ascolto. You're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light.